che emerge un po' dalla polemica teologica, no? Che si è in qualche modo inaugurata anche intorno al pensiero di Rosmini, che lo ha, che ha portato sostanzialmente poi alla sua condanna nel post-obitum. Rosmini, molto interessante, è accusato di astrusità linguistica, molto interessante, di novità di stile e di pensiero, sostanzialmente, secondo la Denkform del tempo, di eresia in una polemica durata troppo a lungo e le cui coordinate teoriche sono facilmente intravedibili nell'intero sviluppo dell'ultima sua opera teologica, rimasta anch'essa incompiuta, dedicata a Il linguaggio teologico. Secondo Rosmini, infatti, chi promuove la critica di noviloquio, novità linguistica, lo fa perché non ha consuetudine con gli scrittori filosofici, orientando in questo modo, in questa valutazione, la precisazione del significato di un'eventuale novità nel suo elaborare teologico. Qual è la novità dell'elaborare teologico del Rosmini, per cui in qualche modo veniva criticato e accusato di noviloquio? Quella dell'introduzione della filosofia, del suo sistema, del suo linguaggio formalizzato in teologia. Se oggi, per esempio, mettendo ad attualizzare, se oggi la pretesa della filosofia di essere il determinante culturale per eccellenza viene contestata da più parti per la nuova autocoscienza che caratterizza le scienze sperimentali e storiche, questo non era al tempo del Rosmini. La mediazione filosofica era il modo con cui l'esigenza all'attualità della comunicazione si concretava. La filosofia permeava il linguaggio umano, la mentalità, i criteri di giudizio, la definizione dei valori, in sintesi la cultura. La prospettiva cherigmatica, inevitabile perché intrinseca al discorso cristiano, ha imposto al pensiero di Rosmini una formulazione linguistica che derivasse da una riformulazione del pensiero filosofico più appropriata alla congiuntura culturale. Rosmini vuole comunicare, e per questo parla quel linguaggio, una rielaborazione della filosofia come espressione dell'esercizio della recta ratio, in sintonia e non in separazione con la fede cattolica. Questo è il suo progetto. Rosmini si apre alle istanze culturali dell'ambiente, illuminismo, sensismo, materialismo, idealismo, discutendo e criticando la base teorica e maggiormente fondamentale da cui esse emergevano, ovvero la volontà di perseguire la separazione della ragione dalla fede. Il pensiero teologico contemporaneo, più sensibile all'istanza del dialogo culturale di quanto non lo fosse quello cattolico moderno, in funzione dell'annuncio, ha piena autocoscienza della basilarità dell'elaborazione di un linguaggio teologico che, assumendo l'esigenza linguistico-semantica delle filosofie determinanti il quadro culturale attuale, si renda più comprensibile all'uomo d'oggi, al fine di rendergli significativamente contemporaneo il messaggio della salvezza. È il problema della traduzione che ha visto impegnati tutti gli attori più prestigiosi del teatro teologico odierno. E la scena risulta abbondantemente variegata da molteplici tentativi. Ora, l'esecuzione di questo compito, però, costringe ad una perplessità che tocca il livello epistemologico e metodologico del problema. Si tratta dell'introduzione, eventualmente surrettizia, di un principio di riduzione nell'interpretazione teologica della fede, il cui esito, il cui effetto conseguenziale non potrebbe non essere un depauperamento del cristianesimo stesso. Cito Schillebeck, che è un autore da questo punto di vista non sospetto. Un progetto positivo umano non può offrire, almeno teologicamente, la precomprensione necessaria ad una corretta interpretazione della fede. Allora, quale precomprensione? Ed ancora quale filosofia potrà svolgere l'esercizio di adeguata precomprensione, for verständnis, per una corretta interpretazione della fede, cioè per la teologia in atto? La risposta di Rosmini sembra divergere essenzialmente da quella di alcuni settori della teologia contemporanea. Essa, la risposta di Rosmini, esprime l'esigenza, qui la sua attualità e paradigmaticità, di un tentativo di riconduzione del pensiero e della cultura alla fede attraverso un'elaborazione filosofica che non solo non misconosca l'apporto della fede, ma addirittura si costruisca effettuandosi nel suo seno, e parlerò di seno e di gravidanza, ma la metafora è rosminiana. Nessuna possibilità di adattamento del cristianesimo alla prospettiva culturale di un linguaggio determinato con l'inevitabilità di un suo reale impoverimento, ma piuttosto la formalizzazione di un linguaggio che pretende di essere la traduzione della recta ratio propria dell'umano come tale, la quale difficilmente può con esaustività chiarire se stessa senza l'illuminazione della fede. E stralcio ancora diversi passaggi sul rapporto filosofia-teologia, avviandomi già verso la conclusione. Il rapporto tra teologia e filosofia in questa prospettiva, nella prospettiva rosminiana, si configura con un'interna tensionalità. Nei contenuti della teologia, la filosofia troverà l'approdo appagante di quella tensione che la spinge sempre verso nuove acquisizioni per una conoscenza esaustiva e assoluta della totalità della realtà, alla quale da solo non perverrebbe per quella sorta di deficienza strutturale che caratterizza l'uomo nel suo procedimento conoscitivo. Infatti, dice Rosmini, l'uomo non percepisce se non il mondo sensibile e l'anima propria, il primo oggetto dell'esperienza esterna, il secondo oggetto dell'esperienza interna. E dunque, egli soltanto delle cose materiali e del suo spirito può avere e comprendere idee, può comprendere e avere idee positive. Qui la fondatezza teorica dell'ancillarità della filosofia, pienamente autocosciente delle proprie capacità e dei propri limiti, rispetto alla teologia che le impone di non travalicare, esorbitando dai propri orizzonti di ricerca, se non vuole guastarsi quanto al proprio servizio funzionale alla fede e alla Chiesa, guastando l'oggetto tematico che pretende svolgere senza averne competenza. Il giudizio storico di Rosmini è a questo proposito palese e laconico. Le eresie nate dal platonismo e dall'aristotelismo sono alla portata della considerazione di tutti, ovvio. Non ovvio, invece, ciò che Rosmini dice di aver fatto dopo aver constatato quanta influenza hanno gli errori filosofici nella stessa religione. Chiederei una particolare attenzione a questo. Mosso da tale considerazione, principalmente ho proposto nel nuovo saggio sull'origine delle idee quel sistema ideologico che, quanto vero, altrettanto parmi l'unico che coi dogmi cristiani perfettamente si possa accordare. L'unicità di questo sistema, che a prima vista decurta effettivamente ogni pluralismo filosofico in materia di dogma, solleva un interrogativo inquietante. Stralcio, questo interrogativo inquietante qual è? È la riformulazione del rapporto tra ratio e fede, non solo nel senso di dirne la relazione di non contraddizione, di corrispondenza, ma rosminianamente nel senso specifico di pensarne la possibilità reale. La questione è: come è possibile che la ragione vivificata dalla fede possa produrre filosofia e non teologia? A livello di metodo, questo problema riferisce la questione radicale della libertà del pensare, che a sua volta impone il problema non pregiudiziale e impreteribile di una liberazione del pensare, dunque della sua iniziale schiavitù. La teologia di Rosmini, in quanto implica l'acquisizione di una filosofia abilitata in funzione teologica, è una risposta concreta a questi interrogativi di fondo, è risolutamente affermata, idonea e compiuta. Se la continuità tra filosofia e teologia è posta dalla forma teologica del filosofare, continuità formale, sarebbe il discorso razionale su Dio, ideale negativo, il punto di innesto del discorso rivelato, tuttavia una discontinuità assiologica di contenuti deve essere affermata, poiché c'è di mezzo una rivelazione formalmente e materialmente soprannaturale. Questo impone ultimamente una ineludibile autonomia metodologica della scienza teologica. La distinzione tra filosofia e teologia emerge come un dato acquisito. Il problema posto è, invece, quello di pensare l'unità non come accostamento, ma come interazione dialettica. L'unità che prevede la filosofia dentro la teologia, perché e in quanto l'orizzonte della fede è entrato dentro la filosofia. E l'unità di filosofia e teologia dentro l'orizzonte formale della fede, dentro la concretezza del credente che pensa. E forse è questo, e dobbiamo prenderne atto ed eventualmente riflettere con tutte le critiche possibili e inimmaginabili, ma è certamente questo l'experimentum crucis della teologia rosminiana, che la sua filosofia, la filosofia che attua la fede attuando la teologia, è una filosofia ricavata dal dogma. È una filosofia ricavata dal dogma. Una filosofia. La filosofia della verità, quella capace di sprigionare le energie proprie della coscienza in quanto intenzionalità aperta alla verità totale. e la filosofia dell'essere ideale applicata all'antropologia, alla morale, divenuta disponibile strumento concettuale a servizio della dottrina cristiana cattolica. Di certo, l'insistenza su questa unicità, facilmente declinabile in esclusività, richiede di essere giustificata attraverso l'esibizione di ragioni sufficienti che Rosmini non tralascia di apportare. E così vorrei, avviarmi, alla conclusione, però lasciatemi per esempio citare alcuni testi duri, duri, che pure sono testi di Rosmini, ricavabili per esempio dall'introduzione alla filosofia e anche dall'antropologia soprannaturale, con qualche testimonianza. Per esempio il Tagliaferri trova riconfermata in introduzione del Vangelo secondo Giovanni l'opinione più volte espressa secondo la quale al gran filosofo di Rovereto sia venuta la prima ispirazione del suo sistema filosofico dalla sua fede religiosa. Altrove si focalizza la contemporaneità tra la meditazione rosminiana sul soprannaturale e il formularsi del pensiero filosofico. Certamente la critica è unanime nel riconoscere un rapporto strettissimo tra filosofia e teologia nelle opere teologiche rosminiane. Tuttavia la critica ha solo detto, dichiarato questa connessione, svolgendo un dato praticamente scontato, poiché Rosmini stesso ha di fatto indicato il fine ultimo dei suoi studi nell'elaborazione di una filosofia di cui la teologia potesse avvalersi. La critica invece non ha precisato, condannandola all'obsolescenza, la nota distintiva della filosofia rosminiana, la sola che può motivare le pretese ascrittegli in teologia, ovvero quella di essere una filosofia enucleata dal dogma e in funzione del dogma. Dice Rosmini, ora egli è appunto questa filosofia che giace occulta nelle viscere della cristiana teologia che noi ci siamo proposti di aiutare perché venga alla luce, facendo anche noi, se ci è permesso usare in altro senso la frase di Socrate, l'ufficio quasi direi da levatrice. Riportando Rosmini la convinzione del Palmieri, per il quale c'è un legame profondo tra il dogma del peccato originale e il problema filosofico dell'innatismo delle idee, Rosmini commenta, da questo passo apparisce che il citato professore di teologia dommatica senta lo stretto nesso che avea la questione filosofica dell'origine delle idee col dogma teologico del peccato originale e che questo portava il dogma teologico del peccato originale, che questo portava la risoluzione di quella nel suo seno. Ora Rosmini ha affrontato espressamente il problema gnoseologico delle origini delle idee, approntandone una soluzione innatista del tutto nuovo e personale. Non di meno, la domanda sul pregiudizio dommatico in questa soluzione eventualmente operante deve tener conto di quanto egli dice esplicitamente. Il peccato originale non accennava se non la necessità di un sistema filosofico che ammettesse qualche cosa di innato, ma non dicea che solo una diligente e fedele investigazione della natura della mente umana doveva poi trovare che cosa fosse questo di innato. E questa ricerca da noi affrontata ci condusse alla teoria della naturale percezione dell'essere in universale. Ecco, con questo passo si stabiliscono le corrette coordinate entro le quali mantenere la nostra affermazione, quella che ho voluto epistemologicamente avvalorare, di una filosofia enucleata del dogma che non ha nulla a che fare con una filosofia eventualmente pregiudicata, non autonoma, non intensivamente tale. Come per dirla in termini concreti, non c'è bisogno di epurare teologicamente la filosofia del Rosmini per riconoscerne l'effettiva filosoficità e la profonda potenza e autenticità razionale. E così questa traccia di conclusione problematica, ancora 5 minuti, la teologia di Rosmini si presenta così interessante, non nel barcamenarsi, ma nel dare una via, potremmo dire, media e comunque cattolica tra razionalismo e fideismo. L'intelligenza dentro la fede rimuove molte oscurità delle dottrine rivelate, tuttavia non assolutamente. L'oscurità permane, perché la potenzialità intellettiva è quella dell'uomo e l'uomo nella vita presente è limitato. Tale deficienza strutturale dell'umano svela la storicità concreta della teologia, che è costretta nella storia a salvaguardare i poli fondamentali nei quali si muove e vive, ovvero le verità della fede, fermamente credute sull'autorità di Dio rivelantesi e sull'autorità della Chiesa Cattolica contro il razionalismo, presuntuosamente proiettata a censurare ciò che è mistero e perciò irriducibile ai limitati orizzonti della ragione umana. E d'altra parte, la ragione umana stessa, spesso pusillanimamente depressa dal fideismo, poiché ritenuta incapace di benché minima certezza, e per questo esclusa totalmente, conservando la sola fede, la divina autorità. Rivisitare dunque il rapporto tra teologia e filosofia. La figura di teologia rosminiana impone la revisione dei rapporti tra filosofia e teologia, perché nel pensiero rosminiano è facilmente rilevabile questa intrinsecità alla fede di una razionalità filosofica funzionale poi all'elaborazione teologica. Non si tratta dunque della filosofia separata, mai in Rosmini. La teologia, questo logos della fede, dipende rosminianamente da un logos nella fede. La fede viene stabilita come orizzonte formale entro cui la razionalità umana può svolgere una duplicità di attuazione filosofica e teologica. La formula rosminiana, se così si può dire, è così riducibile. Solo quell'attuazione filosofica della ratio, quella attuazione filosofica della ratio, legittima la propria attuazione teologica, sapendo tuttavia che tale attuazione teologica non può essere pensata separatamente da quella filosofica, ma con essa interagente dinamicamente. In questa prospettiva che io ho voluto e accenno soltanto indicare in questo mio volume sulla teologia secondo Antonio Rosmini, Sistematica, Critica e Interpretazione del Rapporto Fede-Ragione, un ultimo capitolo dedicato all'ipotesi, a un'ipotesi, l'ipotesi dell'inclusione epistemologica del filosofare cristiano in teologia, proprio per dare attualità al pensiero di Rosmini. A Rosmini, a mio modesto avviso, è riferibile l'interpretazione che Jacques Maritain ha dato alla dottrina di San Tommaso. Dice Jacques Maritain di San Tommaso: egli era un teologo, cioè qualcuno che applica la sua ragione all'acquisto di qualche intelligenza dei misteri della fede. Quale strumento è necessario per questo? Una filosofia, e non una filosofia qualsiasi, ma una filosofia che sia essa stessa essenzialmente fondata in verità. Poiché San Tommaso era un teologo, si prese cura di scegliere e scegliere bene il suo filosofo, e non scelse il suo filosofo, ma lo rifece da cima in fondo. Così è per Rosmini, ma con una evidente variante. Ciò che in questo ci sembra caratteristico di Rosmini è il fatto che egli non pregiudichi questa filosofia cristiana secondo un sistema particolare, tomistico o scolastico. E infatti lui stesso, senza pregiudizi, intese elaborare una filosofia vera. Da questo punto di vista ritengo recuperabile, ma anche adeguatamente interpretabile, questo concetto dell'ancillarità della filosofia rispetto alla teologia. Affermare la distinzione, la non identità, il non assorbimento di ragione, di fede, di filosofia cristiana e teologia non può più essere fatto senza pensare, e non semplicemente dire, l'armonia, la concordia, il richiamo reciproco, l'interiore ordinamento, in definitiva l'unità, ma fattivamente in opera. Un'unità qualificata, poiché permane in essa una tensionalità che urge distinzione. Nell'ottica rosminiana, secondo l'interpretazione che ho cercato di accreditare, è impossibile muovere da una prospettiva di separazione che identifichi i due termini in mutua indipendenza per poi realizzare l'accostamento. Questo comporta il guadagno alla fede e alla teologia di una ratio intrinseca e non sopravveniente dall'esterno, come se ad extra della fede possa essere elaborata una razionalità critico-scientifica pura da cui far dipendere la scientificità della teologia. Tale dipendere potrebbe infatti declinarsi in servitù, e la figura della filosofia come ancella si muterebbe immediatamente in quella di padrona, forse tiranna. Nessun asservimento della teologia alla filosofia. Tuttavia, la metafora classica dell'ancilla teologie, sostenuta da Rosmini in condivisione dell'ideologia medievale della regalità della teologia, dovrà meglio contenutizzarsi, interagendo con l'acquisizione ormai indimenticabile. L'ancella, la filosofia, chiaramente voluta come espressione compiuta della recta ratio, non è il frutto di un filosofare neutro, ma il prodotto di una condizione esistenziale tipica, specifica, dell'appropriarsi della verità, quella originata dalla decisione di credere in Gesù, che è la fede cristiana. Grazie. Professor Stagliano è riuscito ad afferrare la nostra attenzione e a tenerla viva, vero, malgrado l'ora tarda, la fatica, eccetera. Mi pare che già questo testimonia, vero, per la validità di questa esposizione. Io ho goduto immensamente nel sentir dichiarare quello che ho sentito poche volte finora, proprio così categoricamente, che Rosmini è soprattutto teologo e che a partir da lì si capisce anche la sua filosofia, questo filosofare nella fede, filosofia dentro la teologia, questa teologia allo stato nascente, questa in condizione originale da farsi vitalmente a nuovo in ogni generazione. Mi pare che è proprio il merito suo ed è quello che noi stiamo veramente cercando di capire sotto relazioni che mi sembrano sommamente significative. Ecco. Allora, domande che naturalmente permangono: cos'è la teologia? Su questo non è mai finito il discorso, la ricerca. Cos'è la fede? Cos'è la religione? Tutto cose che si suppongono concetti finiti e rotondi e che invece sono continuamente aperti e vitali. Ecco, mi è piaciuto anche il riferimento alla astrusità linguistica dei trentini, perché di Rosmini, perché il povero Rosmini a Trento, ovviamente, forse in fase iniziale anche lui, ma con discepoli che il catechismo lo sapevano e prendevano tutto buono quel che la Santa Madre Chiesa insegna e non andavano più in là e non sentivano neanche lo stimolo di andare molto più in là, ecco, lo hanno tagliato fuori, anche i suoi umili discepoli, nell'ambiente pedestre, vero, della città alpina, lo hanno tagliato fuori proprio perché li faceva dormire nelle sue meditazioni invece che stimolarle in modo sprizzante e così via. Ecco, senza dubbio è un merito grande il vostro, quello di aiutare noi tutti un po' a, ecco, vecchiare, a rivivificare, a rompere questi involucri che possono ancora anche linguisticamente essere così. Infine devo dire che la riflessione che qui si va presentando la sento straordinariamente utile proprio per la vita spirituale del nostro istituto, che è un istituto che non è teologico ma è di scienze religiose, però fa i conti con la teologia di continuo e per la quale qualcuno ha anche avanzato l'idea se non può trasformarsi in un'accademia o in una facoltà teologica. Dipende da che teologia, come stavamo dicendo. Grazie a tutti della pazienza e alle 3 del pomeriggio raccomanderei la puntualità a ritrovarci.